Ciao ragazzacci. Buah! Che vuoi ti faccia il rutto? Così almeno. Guarda che più diavoli di voi non ce n'è in radio, per cui state tranquilli e non fate gli angioletti con me, eh. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Forconi maledetti, ma che diavolo volete dall'Italia? Cosa volete dalla gente normale che lavora? Cosa volete? Lavoro? Dite come? Quando? Perché? Non vogliamo il lavoro. Meno tasse? Dite come? Quando? Perché? Non facendo le piazzate al Brennero, o peggio ancora, o per le strade d'Italia, o peggio ancora, tirando quattro delinquenti, sassi e altre cose contro la polizia. Maledetti forconi, maledetti. Potete sentire le voci più disparate, che non ci si capisce niente, cosa vogliono, c'è gente che vuole... Ma chi sono sti forconi? Ma che ne so, ma... Chi c'è dentro sti forconi? Teppaglia! Anche Teppaglia! Anche. Sono stato troppo... Voi sentite qualche voce? E si sente qualsiasi cosa, contro l'euro, contro Napolitano, uno che è a favore dell'indipendenza del Veneto, un altro ancora che dice che Napolitano è delegittimo il Parlamento, un altro che ha fatto una denuncia alla Corte dei diritti dell'uomo, un altro che dice che non riusciamo a comprare il pane, ma c'è di tutto! Se oggi se uno voleva far casino andava dai forconi e lì metteva la sua istanza dei signori forconi. Ma devi sentire una voce, dai! Conteso da mille network. Crescente povertà che opprime milioni di italiani impongono ad ogni cittadino libero di reagire e noi stiamo aggregando cittadini che vogliono reagire a questa situazione di fatto. Ma reagire cosa? Chi? Come? Stiamo aggregando cittadini? Ma che aggreghi? Tanto dura due giorni e poi ve ne andate a casa, forconi maledetti! Ma anche solo la rabbia dei forconi contro maledetti la zanzara, forconi, adesso. Uno che dice in culo all'euro, in culo con l'euro. Cosa? Basta con sti forconi! Perché noi se ci tenevamo la lira, era un toccasana, porca miseria, avevamo paura di non avere mica l'euro. Noi che abbiamo l'euro ce lo prendiamo in culo. Beh, abbiamo però anche questo tra i forconi, quelli che, grande novità, adesso sta diventando di moda, no? Sono contro l'euro e tu per questo blocchi le strade. Ma chi è questo qui? Ma che ne so, uno che partecipa le voci dei forconi in Veneto, non so dove, un altro contro Napolitano, senti. Dai su, ma basta. Ma il Presidente della Repubblica, questo signore ciappa 40 e passa 1000 euro al mese e viene in televisione a dire a me che ho 1200 euro al mese in 5 in famiglia, che io devo fare i sacrifici perché c'è la crisi, ma vedo andare in mola, se ne deve andare! Ecco, in Veneto, dai. Tecnicamente andare in mona, lei sa che dai. Cosa significa tecnicamente? Non lo so, ma sicuramente è una parolaccia, sì, va benissimo, Poi c'è anche il signor Todaro, non so, ma come cazzo si chiama questo qua, Todaro? Senti questo, la povertà rende libero il cittadino di reagire. Questi, capito, c'è gente che pensa di poter eliminare la povertà. Non si può eliminare la povertà, è sempre esistita, non esiste una società dove non c'è povertà. No. Quello vogliamo dire chiaramente questa cosa, invece di prenderci per il culo. Una società dove non c'è la povertà non esiste, chiaro? Crescente povertà che opprime milioni di italiani impongono ad ogni cittadino libero di reagire e noi stiamo aggregando cittadini che... Vabbè, a parte i forconi che tanto se ne parla oggi, domani già non se ne parla più. Ma... E a parte la vergogna di Torino con le forze dell'ordine ferite... E la bufala incredibile di quelli che si sono tolti i caschi per solidarizzare non era vero, se lo sono tolto semplicemente perché era finito il turno. Oh, naturalmente c'è Renzi, naturalmente c'è Renzi. Oggi è la sua giornata, insomma, dai. C'è Renzi. Tutte c'è queste Renzi. Donne, le piace tutte anche queste donne? Anche lui ha un po' lisciato il pelo, Anche lui ha un po' lisciato il pelo. Beh, sì, bisogna dare risposte. Ma che risposte vuoi dare ai Forconi? Sull'euro, sul Napolitano? Vuoi dare risposta a questa gente qua? Dai, su. A me cosa mi fa impazzire i politici che lisciano il pelo ai Forconi? Mi fa impazzire questa cosa. Mi fa andare ai matti. Mi fa andare ai matti. Dormirò. Sono stato troppo sveglio. Oh, Renzi, che pigliamo di Renzi? Tanto è tutto uguale. È la classe dirigente peggiore degli ultimi 30 anni. Che dice? Vabbè, non è la fine della sinistra. Mettiamo questo, va. Questa non è la fine della sinistra. Questa è la fine di un gruppo dirigente della sinistra. Non è la fine della sinistra. Noi stiamo cambiando i giocatori. Non stiamo andando dall'altra parte del campo. Stiamo cambiando giocatori che hanno dato il meglio di loro stessi, ma adesso hanno bisogno della sostituzione. I giocatori e la sostituzione. Qualcosa fino adesso tutti quanti hanno detto discorso meraviglioso, bellissimo, sì, per carità, va bene tutto. Però qualcosa di concreto non l'ho sentito per adesso, eh. Vabbè, qualcosa di concreto. Ieri doveva continuare. Concreto, però va bene, va bene. Ad appassionare i suoi. Siamo qui, la Zanzara, 800240024, e intanto, come io avevo previsto, come sì, avevo comunicato urbi e torbi una ventina di giorni fa, la nuova Forza Italia si basa sui cani. Caro, beh, tu ti incazzerai, caro David. L'avevi anticipato già. Che sì, i padri della Costituzione no, parlavano di altro, sì, che i partiti devono essere fondati su altre cose. Forza Italia... Sì. Nel suo statuto, sì, nella, sì, sua, no, nella sua forza costitutiva, i cani, perché Berlusconi ha scoperto l'amore per l'ha i detto cani. Ancora. No, c'è questo vice di Bertolaso che adesso si occupa della nuova Forza Italia, si chiama Marcello Fiori, se non sbaglio, no? È già un miracolo, senti, senti, se siamo qua, solo l'amore ci risveglierà. Questo tema degli animali deve essere affrontato pensando e immaginando anche sul territorio una serie di servizi alle famiglie che hanno gli animali. Stiamo immaginando la possibilità di stipulare convenzioni con l'ordine dei veterinari per avere tariffe e prestazioni convenzionate, la possibilità di avere azioni di volontariato nei confronti delle famiglie che hanno anche la necessità a volte di accompagnare gli animali a fare i loro bisognini per strada, perché molto spesso gli anziani non sono in grado di farlo. Ancora, perché c'è la possibilità di Forza Dudu, eh? Forza Dudu, amico mio, Forza Dudu. Molti di questi animali svolgono una vera funzione di pet therapy, di assistenza per gli anziani, per le famiglie sole, per le famiglie più in difficoltà. Noi... Marcello, ti interrompo perché ho una certa tu. Esperienza anch'io. Certo. Intanto do una notizia. Da oggi potete trovare sulla rete un sito che si chiama Forza Dudu. Eccoci qui, 800240024. Beh, voglio chiedere innanzitutto, non io diciamo me ne, niente per il momento su questa me ne frego roba. Dei Forconi, voglio chiamare una e persona. Dei cani? No, non voglio chiamare e una dei cani? Persona. Voglio chiamare una persona, lascia perdere. Voglio chiamare una persona perché in questo momento mi interessano sapere alcune cose che riguarda Dudu. Dudu. Vabbè, questo non è. Federico Coccia, veterinario di Dudu, buonasera. Buonasera. Come sta, caro dottore? Come sta? Bene, grazie. È bene, diventato bene, una delle persone più famose d'Italia, lei, ultimamente. Carissimo. Più famose d'Italia. Innanzitutto, mi dica una cosa, caro Coccia, ma è vera questa notizia che ci è stata rivelata dal signor Alfonso Signorini, proprio quella Zanzara, sull'omosessualità di Dudu? È una cosa che ho qui in testa. Bisessualità, qualcuno arriva a dire anche. Lui ha detto omosessualità. Però... Vogliamo chiarire una volta per tutte, perché la cosa ha, come dire, colpito molti ascoltatori. No, lei avrà letto questa notizia, sicuramente. Signor Signorini, certo, che se ne intende, amico di famiglia... Berlusconi, amico della famiglia Berlusconi, ha detto, beh, insomma, io ho l'impressione che sia gay, poi lui se ne intende di gayitudine, il signor Signorini, come lei sa. Allora, sicuramente questa è una provocazione. L'omosessualità nei cani non è un problema così importante come negli uomini. Cioè? Quindi, non è un problema. Cioè, non esistono che... Non esistono. Esiste anche l'omosessualità, ma non è un problema. Cioè, non è un ostacolo per, non è per la riproduzione. No. Ah, lei vuole dire che i cani sono bisessuali, sono sempre bisessuali. Certo. Certo. Ma no, non sono sempre bisessuali, però esiste anche l'omosessualità, ma non è così rilevante. Mm. Vabbè, io non ho capito questa cosa, non è così rilevante. Beh, però cioè, per il padrone forse è rilevante. Ah, non è prevalente, non è prevalente. Non è prevalente. Ah, non è prevalente. Però nel caso di Dudu, di cosa stiamo parlando? Di eterosessualità? Scusi, come si di fa poi cose, a capire? Scusi. Ma non l'ho introdotto io. Allora, Dudu è un cucciolo, quindi... stiamo parlando di un cucciolo, sì. È un cane normalissimo, sì. E Signorini sicuramente ha... Normalissimo, ha che una, vuol dire, scusi? Una provocazione. Normalissimo? Normale, un cane normale, un cucciolo normale che fa una vita normale. Ancora deve sviluppare ancora la sua sessualità. Ah, deve sviluppare quindi la sua siamo sessualità. Ancora in tempo per tutelarlo, insomma, sì. No, esatto, vabbè. Siamo ancora in tempo. Beh. Siamo ancora in tempo. Lei vuole dire comunque che un cane che ha delle, magari delle tendenze omosessuali poi in realtà pratica anche l'eterosessualità, o no? Ma non ci sono tendenze. E che ne so, ma io non... Ma non paragonate i cani agli uomini, per favore. Ma per favore. No, ma chi li paragona? Ma non esiste. Ma è vero che è un po' effeminato o no? È vero che è un po' effeminato, come dice Signorini? Assolutamente no, ma voi paragonate il cane agli uomini. Non l'ho fatto io, ma l'ha fatto Signorini, mica l'ho fatto io. Ma Signorini ha provocato. Ha provocato, e perché ha provocato? Vabbè, ha provocato. Senta, ma tutta questa attenzione, i club Forza Dudu, queste robe qui, non è che possono provocare nel cane, lei che fa il veterinario? Turbargli la psiche adesso. Non dico turbarli, però insomma c'è un'attenzione eccessiva, può provocare delle cose nei confronti del cane? Ma questo, ma non è un'accensione... Cioè, eccessiva perché è il pubblico che lo richiede, perché voi pensate che lui non se ne rende conto. Tre su tre cittadini, due hanno il cane o il gatto in casa. Sì. Quindi chi ha adesso un cane o un gatto sicuramente è interessato alle problematiche. E chiaramente in questo momento tutto ciò che parla di cani o di gatti è interessante. Scusi un attimo, Coccia, però lei sta facendo il consulente anche per questa roba qui, oltre che veterinario di Dudu? Anche no, per... no, io sono un medico veterinario. Ma lei è favorevole alla creazione di club Forza Dudu? Ma guardi, se tutto questo porta bene ai cani meno fortunati, io questo dico. Certo. Per esempio, Dudu, la popolarità di Dudu, sì, se porterà bene ai cani meno fortunati, come per esempio i cani dei canili, sarà un bene. Vabbè, vedremo. Traffico, torniamo subito, resti lì. Lorenzo è rimasto sconvolto da una notizia. Qual è la notizia? La notizia è che questo tal signor Diego Volpe Pasini, questo disturbatore che ogni tanto lei chiama a molestare questa trasmissione radiofonica sulle 24 ore, avrebbe, ma non so se la notizia è confermata, no, è confermata, registrato il marchio Forza Dudu. Ora, questo signor Volpe Pasini è specializzato da anni nella registrazione di marchi Forza Eider, quando c'era quel vecchio Eider nazista lì in Austria. Poi basta Rom, poi basta tasse, poi basta euro. Ogni volta che esce una cosa, poi basta crucia. Ogni volta che c'è una... Ora Forza Dudu. Questo signore è da fermare subito. Fermare? Fermatelo! Fermatelo! Vi porta via tutto se uno dice la zanzara. Registrato il marchio. Cazzo, come è registrato? Il giorno da pecora, già registrato. Radio Capital, è mio. Forza Capital, non puoi, l'ho preso io. Forza Italia, ho preso sia Forza che Italia, sia Italia che Forza, tutte le combinazioni. E poi è nuovo centrodestra. No, mi spiace, è mio. E ancora il Partito Radicale, no, ce l'ho anch'io. Partito Radicale, Volpe Pasini, io ho fatto Radicale Partito. E poi parla come Sgarbi, no, lui, alla fine, perché la voce lo dico come Sgarbi. E per forza, fatto io, cretino, capra, cretino, abbiamo registrato. Volpe Pasini, sono stato Arcore. Siamo qui 800 24 00 24, con noi Federico Coccia, veterinario di Dudu. Senta, ma quanto costa una visita a Dudu, Coccia? No, una visita a Dudu, non una visita a Dudu, quanto costa una visita veterinaria? Non è che Dudu paga di più o di meno. Ah, non paga di più? 100 euro, quanto costerà? No, assolutamente no, magari sarei già ricchissimo. Costa 40 euro più IVA. 40 euro, la metà di un chilo di fagiolini, quanto costavano ad Arco una volta? 80 euro, così poco 40 euro per Dudu. Quante volte ci va lei? Quante volte ci va? Non è quante volte ci va, magari... Se ci va tre volte al giorno? Si va... No, assolutamente no, assolutamente no. L'ho visto l'ultima volta 10 giorni fa, l'ho visto una volta ogni due mesi. Ma chi lo porta? Bondi? Francesca. No, Francesca. Ah, ma lo porta, non va lei? No, lo porta. Perché un po' può anche andare. Può succedere. Senta, ma lei vota Berlusconi? Ma mangia pastine, no, ti ricordi quella vicenda delle paste, però? Cosa? Che mangiava, diceva che gli davano delle pastine. L'abbiamo già chiarita quella cosa. Mi sovrapponete, non vi sento. Sì, è Parenzo che non capisce. No, lui dice era rimasto indietro la storia delle paste, dei pasticcini. Vabbè, quella è stata. No, già... Tutte stupidaggini, provocazioni, sì. Qualcuno ha detto che mangia pasticcini, non mangia pasticcini, i cani non mangiano pasticcini, anche perché la maggior parte dei cani non piace, quindi certo, no, ma perché che mangiano i pasticcini, poi fanno male perché alzano la glicemia, certo, e corretto, preparano certo al diabete, quindi assolutamente. Qual è il suo cibo preferito? Il mio? No, il suo, il suo. Cioè, che ci interessa. Il cibo preferito non è un cibo preferito, è la dieta che prescrive il medico veterinario. E Dudu, essendo un cucciolone, ha una dieta Dudu, di croccantini per pappi, per cuccioli, appunto abbastanza calorica, nel senso che piene queste diete di vitamine e sali minerali. Ma com'è? In forma? È grasso? Magro? Com'è? È come perfetto. Perfetto, vabbè, perfetto. Perfetto. Ma lei è berlusconiano, signor Coccia? Ha votato Berlusconi? È un ammiratore di Berlusconi oppure no? No, io penso che Berlusconi sia una persona molto intelligente. No, ma nella sua vita. Ma non infatti ci mette... già, se lei ci pensa, sì, il fatto di parlare di animali e di cani in questo momento è già una mossa intelligente. Cioè, vabbè, lei ha votato Berlusconi, non c'è mica niente di male, mica sto parlando di Al Capone, anche se qualcuno lo paragona anche ad Al Capone. Ma sono del personale. È uno dei clienti migliori. Io sono un medico veterinario, io sono un tecnico. E vabbè, che c'entra, però lei avrà qualche simpatia, è considerato il... Certo, mi piace Berlusconi. Le piace Berlusconi? E Renzi le piace? Renzi le piace? Anche Renzi. Ho molta stima di Renzi. Lo voterebbe adesso, per esempio? Ma perché no? Bisogna vedere, è appena arrivato, vediamo cosa dice. Però dopo Berlusconi, diciamo, se non ci fosse Berlusconi, potrebbe votare Renzi. Ma sai, sono tutte e due persone molto chissà intelligenti. Certo, c'è qualcosa di di Berlusconi in Renzi però, o no? Mi sta chiedendo un medico veterinario. Cioè, e vabbè, ma è un cittadino comune, noi invitiamo un sacco di cittadini comuni. Ma non c'è, ma sì, sono tutte e due grandi comunicatori. Due grandi comunicatori. Senti, ma questa cosa del leccaggio dei piedi, che è una cosa che ha colpito tutti, no? Ma è vero o non è vero? Oppure è una delle tante cose che si dicono su Dudu, caro Coccia? Non ho capito, prego. Del leccaggio dei piedi di Berlusconi, ogni tanto la mattina lecca i piedi di Berlusconi, ne sa qualcosa? Ma può succedere, il cane se lecca è come un bacino di una persona, può succedere. Perché no, è un modo. Senta, Berlusconi ha detto una cosa, tra la compagna e il cane, dice che ha fatto un sondaggio, la maggior parte degli italiani sopprimerebbe il proprio sposo, secondo Berlusconi, è vero o no? Ma io, se fosse così, veramente io sarei contentissimo. Come sarebbe contento? Come sono pro cani, guarda. Beh, il veterinario. Anche lei la sua compagna e il cane, alla fine se dovesse scegliere sopprimerebbe la compagna. Salva il cane. Ma certo. Vabbè, ma fa il veterinario. Ma io questo animalismo di fondo non lo capisco. Ma il suo lavoro. Ma va a visitare pure il cane della Biancofiore lei? È probabile. Vabbè, ma lei è il veterinario di tutta Forza Italia. Ma scusi, ma quanto guadagna questi? Quanto guadagna? Se lei fa i conti sono 40 e 40, sono 80. Vabbè, dai, su. Vabbè. Ma qualche cane di sinistra lo visita più IVA, anche? Più IVA. Ma più i cani di sinistra? Cani di sinistra. IVA 22%. Ma qualche cane di sinistra? 22%. Qualche cane di... Il cane di D'Alema, ad esempio, lo visita o no? Il cane di D'Alema mi piacerebbe, ma D'Alema sta sempre in giro, diciamo, è difficile che sia... Ma secondo me i cani di sinistra lei non li visita. I cani non hanno colore. Ma... io visito cani sia a destra che a sinistra. Va bene, giornale radio, grazie. Eccoci qui 800 24 00 24. Ancora voci di forconi maledetti. Ovviamente ci sarà gente che ha perso il lavoro, ci sarà gente in grande difficoltà, sì, ci sarà gente sicuramente che ha dei problemi economici. Ma come vuole risolverli? Andando sotto le sedi, non so, dei partiti, andando nelle piazze, bloccando le autostrade, a gridare contro chi? A gridare contro chi? A bloccare ancora l'economia? È questo che volete fare, forconi? Maledetti forconi, è questo che volete fare? Fatemi sentire un'altra voce di questi forconi. È questo che dice: ho un figlio di 22 anni che dorme e non trova lavoro. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma no, chi se ne frega? No, però ho capito, devi bloccare le città. Ma non c'è devi un sacco di non gente. Devi scontrarti con la polizia. Adesso chi se ne frega? No. No a quello che fate, alle modalità della protesta. Andate a occupare un monumento, ad esempio. Bellissimo sarebbe. Ma stai zitto. Sei venuta oggi? Perché ho un figlio di 22 anni che è a casa che dorme, che non sta facendo niente, non trova lavoro. Ma poi, a parte tutto, questa qua è andata lì, io divento pazzo, perché il figlio di 22 anni, ok, 22 anni però, si può anche, per carità, dovremmo iniziare prima a lavorare, però a 22 anni a 22 anni uno può anche aspettare. Ma si deprime e dorme. Tu a 22 anni che stracazzo facevi? Scusa, spiegami. Ma non lo so. Cosa facevi a 22 anni? Facevi niente, studiavi all'università. Sì, esatto. Facevi sì. finta di studiare all'università. Sì, anch'io facevo finta di studiare all'università. Sì, sì. Amico mio. Però quello deve vuole lavorare e invece la mamma è disperata perché quello dorme. Ma dorme perché sarà fatto 40 canne. Questo è il punto. Ma il problema non è che questi qui vanno in piazza, il problema è che bloccano, che si scontrano con la polizia alcuni, che fanno danni, ma la protesta può avere delle ragioni aspetta, profonde. Aspetta, un altro che dice assassini, tiriamo fuori le palle, assassini a chi? L'abbiamo iniziato questa lotta perché vogliamo fare sentire a queste ladre, a questi delinquenti, a questi assassini, perché non si uccide solo sparando, che hanno fatto suicidare padre di famiglia? L'abbiamo detto? Parlare bene, bello, benissimo. Dobbiamo dimostrare che i siciliani finalmente tirano fuori le palle. Assassini, devo tirare fuori le palle. Dai, vabbè, su, ma non si può dare retta a questi forconi, dai, su. No, non si possono bloccare domani i binari dei tutto treni. Finito. Domani è tutto finito. Devo dire che non è successo nulla, successo poco perché come al solito le forze dell'ordine sono state molto molto responsabili. Beh, questo perché non avrei dire... fatto sgomberare tutte le strade. Eccola. No, ma le strade vanno sgomberate, manifestazioni non autorizzate. Sì, questo, manifestazioni non autorizzate vanno sgomberate subito. Subito! Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi presenta la nuova segreteria del PD dopo le primarie, 12 persone, 7 donne, età media 35 anni, assicura il partito non si dividerà. Il futuro del governo nel colloquio con Letta, ritiro della fiducia non è all'ordine del giorno, dice il segretario, nota congiunta, lavoreremo bene insieme. Brunetta, la legge elettorale si può fare in una settimana, Berlusconi, Renzi e Grillo per il maggioritario, poi subito al voto, i 5 Stelle, mai col Cavaliere. Mattoni contro la regione, minaccia ai negozianti, scontri con la polizia, Torino degenera la protesta di tire forconi, a Genova bloccata la stazione. Legge di stabilità, tagliati di un terzo gli emendamenti alla Camera, Banca Italia crollo record dei prestiti alle imprese, squinzi in giro, c'è disperazione. A Kiev la polizia disperde i manifestanti davanti al palazzo del governo, irrompe nella sede del partito della Timoshenko, ma il presidente sono pronto al compromesso. Voglio guardarlo negli occhi, così Lucia Annibaldi, l'avvocato pesarese sfigurata con l'acido al processo contro l'ex compagno ritenuto il mandante dell'aggressione. Zanzara! C'è una zanzara tigre! Oh, hai visto che Lupi, Maurizio Lupi, ministro delle infrastrutture, sì, nonché Lupi. Dei trasporti, non quello della regione Piemonte che si è rubato pure le mutande non di mio nonno. Il vero Maurizio Lupi è il ministro. Esatto. Perché l'altro è Verdi Verdi, se ho l'altro Lupi. Verdi Verdi, signor Lupi, protagonista dello scandalo dei riborsi, eccetera, eccetera. Signor Lupi, ministro, ha querelato De Luca. Ah, sì. Beh, questo sì. Diciamo che... è stato De Luca forse vagamente, però, come dire, sopra le righe. Diciamo che in questo caso non è il governo delle larghe intese, ma è il governo dei grandi scazzi. Vogliamo riascoltare la moderata voce di De Luca nei confronti di Lupi, che a un certo punto si è scassato le balle. No, ma è rimazzato, lo diceva i grillini. Sì, però vale si è scassato le balle e Lupi ha detto vabbè, adesso ci vediamo in tribunale. Però a questo punto diciamo che la questione della delega non esiste più. Non so se la vedrà la delega. No, volta. Però non esiste più. Cioè uno può andare... cioè può collaborare quando poi deve andare in tribunale? Non credo, no. De Luca su Lupi. Comunque è ufficiale che Lupi porta sfiga per questa storia della metropolitana, eh? Madonna santa, aspetti, mi faccio fare una cosa un po' scaramantica, preventiva, diciamo. Enzi sa mai, ho due figli, abbiate pazienza. Portano seccia, maledetta. Poi a Napoli proprio. Ma insomma, ti vuoi cautelare, ma si vede, ma non è mestiere suo. Il ministero viene gestito come una bottega privata. Lupi è convinto che il ministero sia una sua bottega privata e questo non è accettabile. Ha trovato il peggiore cliente che gli potesse capitare. Lupi deve capire che non potrà avere il monopolio della più grande agenzia di spesa ed investimenti del paese. Come bisogna dirgli a questa cosa? I forconi forconi. Io ancora mi segnalano che in Veneto non si chiamano forconi, ma il LIFE. LIFE è il sindacato dei liberi imprenditori federalisti europei, fondato dal signor Padoan. No, il signor Padoan li fondò, adesso c'è questo signor Chiavegato. Paolo da Milano, buonasera. Chiavegato. Dai. Niente, dicevo, a proposito, no, facevate la considerazione su quei dei forconi o di quelli dell'IFE, eccetera. Poi uno già un movimento che già si chiama i forconi, no? Cioè che il simbolo del forcone, quello appuntito, no? Già per questo uno dice, vabbè, senti, vai un attimo, cioè mettiti da parte un attimo, i forconi. Ma magari Volpe Basile ha registrato il marchio. Dai! Ma Basile ha registrato il marchio già, il signor Volpe. Dici, Basile. Forconi.it. Ma Forconi.it ha registrato. Forza Forconi.it. Forza Forconi, Radio 24 già ha registrato il marchio. Già Paolo, fatto. Dimmi. Allora, che orrore, dico io. Voi fate sentire poi questo 14 disgraziati poveretti che avranno la terza elementare che protestano in un modo. Ma ho capito, ma è quella la protesta, non è in studio. Sì, lasciami finire, scusa. Dimmi. No, il problema è questo, che uno di solito se non è d'accordo prende e va a votare, giusto? Quando è il momento delle votazioni, quello che avete fatto. E allora tu oggi vai a votare chi voti quei quattro deficienti che sono sempre quelli. Ma che c'entra, scusi? Ma che c'entra? Se lei pensa di essere meno deficiente, si presenti lei. No. Abbia pazienza, scusi. No, sto dicendo che noi, almeno dal mio punto di vista, non c'è questa possibilità di modificare la democrazia è fatta di alcune cose fondamentali. Cioè, uno, capito, la si esercita, non è che la si esercita in piazza a tirare coi forconi in mano, quella è un'altra cosa, quella è la pazzia. La democrazia si esercita con il voto ed essendo bravi cittadini, pagando le tasse e facendo tutto per bene. Così è la democrazia, non è la democrazia così assembleare, cioè ci vediamo in piazza col falcone in mano. Non è così, cioè non funziona in questo modo. Sappiamo tutti e due che non è così. Rivendichiamo il diritto alla casa, alcuni mi dicono quello, il diritto alla, ma non è così la democrazia. In piazza va bene, basta portare l'attenzione su un altro argomento. No, sta attento. Allora, se uno protesta, abbiamo appena detto, uno ha la possibilità di cercare di modificare le cose e va al voto, giusto? Al voto nel modo in cui ci siamo andati negli ultimi 10 anni, vabbè, o 20, non è allora la gente a un certo punto non ne può più. Ma non è vero, non è la gente, è una minoranza, un'assoluta minoranza. Giorgio dalla provincia di Como, ho capito Paolo, Giorgio dalla provincia di Como. Ciao. Dimmi. Cruciani, allora ti volevo dire questo, adesso mi hanno preso nel live, no? Prima sai dov'ero. No, io non so niente, ma non so chi sei. Io sono Giorgio Masocco di Cantù, quello che ti disse che il Galli era un emerito ladro di galline. Che Galli? Chi è che sto Galli? Galli, quello della regione Lombardia, un altro che si è comprato le mutande con i soldi della Lega. No, ma scusami un attimo, Giorgio, non è che mi posso ricordare di tutti gli ascoltatori che chiamano. Hai ragione. Dimmi. Ti volevo dire questo, allora, sul live, mi è dispiaciuto quello che ho sentito prima, che ha detto quattro deficienti. Sulla LIFE? Io sono nell'IFE comunque anche. Ma non abbiamo insultato l'IFE noi, non abbiamo Ho sentito uno prima che ha detto che erano quattro. Vabbè, allora volevo dirti questo su questa protesta, che la gente dovrebbe capire che le proteste oramai devono capire che le strade sono rovinate e c'è sempre un traffico della Madonna. E allora se la protesta continua bisogna andare a Roma, dal mio punto di vista. Bisogna andare a Roma tutti a 90 all'ora, almeno la gente si rende conto dello stato indecente in cui è arrivata l'Italia. Perché le strade del nord sono tutte un buco. Un attimo Giorgio, con la pubblicità, torno tra un attimo. Pubblicità. Cornute che non sono altro, questi sono dei cornuti. Ottima trasmissione, sempre la migliore. In collina, in campagna e anche al mare. Zanza, zanza, zanzare. Una parola d'uva dirà te. Grillo e le primarie del Partito Democratico. 2 euro per farsi prendere per il culo. Pomate, pomatine, cipronella, ma color che niente fare. All'interno della segreteria, gli italiani capiscono poco di queste cose, comunque del gruppo dirigente che guiderà il partito di Renzi, c'è anche l'ex responsabile, anzi il responsabile del programma economico di Civati, cioè come se tu prendi il responsabile economico del tuo avversario e lo fai il responsabile economico del tuo responsabile economico. Evidentemente sulle cose economiche la pensavano allo stesso modo, non sembrava, Renzi e Civati. Poi ci sono persone che fino all'anno scorso pensavano che Renzi fosse da eliminare, non dico fisicamente ma come politico. Vabbè. Per fa l'amore, no, morsicciare di un tram. Almeno diciamolo che questo Grillo è una brutta persona. Proprio. No, che brutta persona, assolutamente. Brutta perché? Persona, perché ieri 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, diciamo 3 milioni di. Vabbè, persone, non si sente, aspetta un attimo che non si sente niente. Ma dai, basta Parenzo, cioè tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda. Rotondi, Rotondi, Berlusconi è iscritto alla categoria dell'eternità. Silvio Berlusconi è iscritto nella categoria dell'eternità. Lei gli vuol dare una data di nascita, già lo diminuisce, quindi siamo proprio, voliamo ad altezze diverse. Fermi tutti. Ingroia dalla parte dei forconi. Senti, senti questa. Le ragioni di questa rabbia sociale e di questa indignazione morale vanno ascoltate e comprese. Bisogna dare risposte adeguate invece che ignorarle, come fanno il governo Letta e l'Europa della Merkel. Anche lui si è iscritto a questo filone. Azione Civile sarà pronta a difendere le ragioni di manifestazioni come queste, purché mantengano un'impronta pacifica non violenta, pur dando legittimo sfogo alla più dura protesta, più che giustificata, contro il governo dell'Italia e dell'Europa. Fermi tutti, ingroia con i forconi, protesta sacrosanta. No, fammi sentire qualche voce ancora. Fammi Antonio Ingroia, quello di Rivoluzione Civile, che è ex magistrato. Ma Ingroia chi è questo? Quello che era magistrato della trattativa? Sì, sì, sì, quello, quello. E poi ha fatto il partito. Adesso è consulente di Crocetta, se non sbaglio. Sì, sì, è lui. Adesso cos'è Ingroia? Consulente di Crocetta, se non sbaglio. Doveva andare in Val d'Aosta, gli scambecchi erano tutti emigrati intanto in Trentino per paura di essere inquisiti. Ma e cosa fa adesso? Il consulente di Crocetta è il leader di Azione Civile, credo. Non so se la cosa è andata in porto poi col signor Crocetta. Senti, capito, no, io voglio risentire quella del figlio di 22 anni, ti ripeto. Sono andato a protestare perché mio figlio di 22 anni sta a casa a dormire. Amica mia. Vabbè, i forconi, i forconi. Come mai sei venuta oggi? Perché ho un figlio di 22 anni che è a casa che dorme, che non sta facendo niente, non trova lavoro. Si sarà fatto 20 canne, signora, suo figlio. Glielo dico io, sta a casa che dorme perché si è fatto 20 canne. E questo è il punto, ma è così, ma sì, ma sarà così sicuramente. No, questo lo possiamo. Senti dire. Qua un altro, un'altra che dice politici delinquenti. Questi sono i forconi, comunque quelli che partecipano, i forconi. Dai su. Devo fare mangiare alla famiglia mia. Va bene, no, io in casa non ne pago. Perché i soldi servono per la mia famiglia, per dare a mangiare ai miei figli. Non per dare a mangiare a questi delinquenti, perché sono delinquenti loro. Ricomincia quel rumore. Oh, eravamo con Giorgio dalla provincia di Como, che però mi segnalano sia, se non sbaglio, Giorgio Masocco. No, me l'hai detto anche tu, no Giorgio? Sì, no, te l'ho detto io che sono Giorgio Masocco. Sì. E volevo dirti, allora, se adesso mi hai fatto venire delle idee, no? Dimmi, se dimmi. Posso permettermi. Allora, di fatto, la Lega non scende più sulle strade, perché se stava come me tutto il giorno, che ho chiuso l'ufficio per coerenza con me stesso e sono andato in piazza Camerlata, la gente tira giù il finestrino, chi guadagna 300 euro, chi è in cassa integrazione, chi ha fretta. Però purtroppo non capisci una cosa, e spero stasera la capisca. Cioè? Il traffico che hanno trovato oggi è quello che trovano tutti i giorni in Lombardia, perché abbiamo i lavori pubblici nella merda, se mi permetti, e i comuni non fanno più un cazzo perché non hanno soldi, e allora purtroppo sono nella merda, però gli va bene tutti i giorni 3 ore di traffico sulla Milano-Bergamo, sulla Milano-Torino o sulle tangenziali di Milano. Però quando ci siamo noi in strada, noi, non la falsa Lega, perché la Lega è la gente come me e come quelli che ci sono lì, non quei merdaioli però, che si mettono le mutande. Ma Socco, adesso questa qua non è il luogo dei tuoi sfoghi nei confronti della Lega. Scusami. Però Parenzo, devi sapere che Giorgio Masocco era un consigliere comunale a Cantù, è forse ancora un consigliere comunale a Cantù. Sì, sono il più votato. È più votato, che disse una volta: le noci di cocco fanno male, se si il chieng sia bravo, contenta bravo, delle banane, giusto? Sei bravo, tu? Bravo, sì, sì, non c'è problema. Sì. Ma come deve essere contenta delle banane? Scusa, spiegami. Ma dovrebbe essere contenta delle banane? Perché una banana non fa male, anzi può servire a molti usi. Invece la noce di cocco, sai, se ti lanciavano quella, poteva anche farti male. Beh, ho capito, però Cioè deve essere contenta che si prende le banane addosso. Ma le banane, figa, hanno il potassio, hanno un sacco di cose che ti danno energia, no? Ma dai, e poi possono essere usate in vari modi. In che modo, scusa? Non lo so, la cicciolina ne sa qualcosa. Cioè, non ho capito, in questo modo stai dicendo che la Chienghe potrebbe usare le banane che le lanciano per abbiamo capito. Multiuso, ma io sono dell'idea per multiuso, per lei d'altronde è molto limitata per il posto che gli hanno dato, sì. Ed è dimostrato, è molto limitata. Scritto anche Sartori sul Corriere, per cui a un certo momento l'unico intendimento, ma vedendo una banana avrà il pensiero di cicciolina, se un minimo di intelligenza ce l'ha. Cioè, no, io non ho capito, cioè tu stai dicendo, sei ancora consigliere comunale, ti segnalo. Lo so, e cosa vuol dire? Sono consigliere comunale. E stai dicendo che la Chienghe si deve ficcare una banana dentro? Ma socco! Faccio un culo come da casa anche al Nicola Molteni, che è onorevole qui a Cantù e non ha fatto un cazzo per la Lega, è un democristiano. Ma che c'entra? Quello. Ma che c'entra? E allora, e che paure devo avere perché sono consigliere comunale? Ma no, ma uno non è che puoi dire, non è che puoi dire che, che il ministro dell'integrazione deve prendersi una banana e se la deve ficcare dentro. Abbi pazienza, ma socco. Ma non lo so, ma lo capirà la Chienghe, no, questa Parenzo, storia. Vuoi dire qualcosa o no? No, io voglio dire questo, mi vergognerei a essere lì elettore, ma non lo sono, non lo sarei mai, ma mi vergognerei a essergli parente da un certo punto di vista, ma anche parente di ottavo grado, e per fortuna non lo sono, perché se qualcuno dei suoi parenti in questo momento lo sta ascoltando, ma mettetelo in sicurezza. Ma sono d'accordo, chiama la Croce Rossa, Cruciani. Ma no, ma non sto chiamando nessuno, Giorgio, però... Che c'è in macchina la Croce Rossa. Che c'hai in macchina? Ho staccato la cintura, no, e si è messo a fare il cicalino, la Croce Rossa autonoma che ho, visto che mi devo ricordare. Giorgio Masocco, ciao Giorgio, ciao. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Ah, William Verona. Ciao. Dimmi. Cruciani, buonasera. Ah, io te lo dicevo solo che siete proprio imbarazzanti certe volte. Specialmente con lo sguardo che c'ha in fianco, puttana vacca. No, non ho capito, scusa William, non ho capito. E siete imbarazzati. In che senso? Di porconi, perché è gente che è fuori al freddo, perché ha voglia di riscattarsi la propria Italia. Si vuole mandare a casa tutta quanta sta cricca politica che sta facendo. Che fai? Posto che ci sia questa cricca politica, dici tu, mettiamo che sia vero che ci sia la cricca politica, in parte c'è ovviamente la cricca politica, o quelli che fanno affari con la politica. Mettiamo che sia così, e che fai? Vai con i forconi? Ma se in altre maniere non ti ascoltano, come devi fare? Oh, Cruciani. Ma tu sei andato con i forconi? Purtroppo sto andando col camion perché la mia categoria di autotrasporto non ha aderito al trasporto, e perché sennò sarei anch'io fermo al casello autostradale a bloccare tutto quanto, perché è giusto che la gente si ripigli la propria Italia, che è stata derubata da gente come Renzi, che Dio santo, che è un indagato, un condannato in primo grado, €1 milioni di danni all'erario. Ma che c'entra quello? E non ha votato, e questa è la gente che ci meritiamo, perché continuiamo a votarla, e abbiamo speso 2 euro per andarla a votare. Ma che c'entra adesso? Sta mischiando tutto, vedi perché non è credibile nulla? No, non sto mischiando tutto, questa è la richiesta che vabbè, sta facendo loro. Stefano da Firenze, intanto qualcuno mi scrive 2 ore fermo a Vicenza, vendita persa, questo succede poi alla fine. Stefano, ecco, dimmi. Buonasera, io volevo dire come mai oggi io ero a manifestare a Firenze, sì. Devo dire che forconi non ho visto neanche uno, ho visto bandiere italiane, non ho visto una bandiera di partito, non ho visto una bandiera sindacale, c'era solo cittadini, sì, che manifestavano, ognuno al suo motivo, chi ce l'ha con Napolitano, chi ce l'ha con l'euro, chi ce l'ha con le banane come quello di prima. Io sono andato lì perché, come diceva l'ascoltatore prima di me, in Italia non accetto di essere governato da un, sì, Parlamento dove ci sono, consultabile su Google semplicemente, più di 107 parlamentari che hanno condanne per corruzione. Ma questo che c'entra con i forconi? Scusi, ma che c'entra questa cosa con la protesta? È tutto mischiato insieme, è tutto insieme, è tutto insieme. Non sono, io non so perché le sa così con i forconi che ne hanno. Non è che i forconi, sono per le proteste in cui c'è tutto il contrario di tutto. In che modo possiamo manifestare il nostro disagio? Oltre che votando, ma votando è inutile, io ho sempre votato. Con questa legge elettorale. Scusi, ma io vorrei capire, lei che cosa è andato. Mi spiega un attimo, che cosa è andato. La protesta sua, che cos'era? Perché cos'era? Non la spieghi. Per cercare di un'utopia, mandare a casa. Mandare a casa. Queste persone. Cioè, dunque, si può protestare sempre? Si può protestare sempre? Come? Si possono? Mandare fuori dal Parlamento chi? Gli abusivi, quelli che non ci dovrebbero. No, i parlamentari. Perché in generale, chi governa allora? E chi governa al posto dei parlamentari? Bene, facciamo nuove elezioni con una nuova legge elettorale. Ma questo che c'è bisogno di andare in piazza per una cosa del genere? Sì, vabbè, Stefano. Sembra di sì, sembra arrivederci, di sì. Grazie. Caro Parenzo, grandi ospiti questa sera alla Zanzara, ben ritrovato a Pippo Baudo. Ciao Pippo, come stai? Buonasera. Come stai? Bene, benissimo. Allora, Parenzo, omaggia il maestro qua. Beh, omaggio il maestro perché non lo rivedo dall'epoca di Rai 3 della nostra guerra dei mondi, il grande Pippo Baudo. Quindi sì, lo sì, abbraccio sì, sì. Forte, lo saluto e gli faccio anche auguri di buon Natale, buone feste e buon anno. Tanto auguri a tutta l'equipe della Zanzara. Senti Pippo, ti voglio chiedere una cosa, ma che mi raccontano che hai incontrato delle difficoltà nel votare al seggio del partito? Nessuna. Allora dicono stupidaggini. Avevo già fatto presente la mia situazione. Un residente fuori da Roma, avevo sì. La mia tessera di iscrizione, sì. Avevo il mio certificato elettorale, quindi ho votato regolarmente come tutti gli altri. Ma è la prima volta che voti alle primarie del PD o già hai votato? È la prima volta, sì, la prima volta. Hai votato per Renzi, no? Per Renzi, dunque non è che ci sono solo i giovani che votano per Renzi, a parte che Pippo è giovanissimo. Pure le vecchie glorie, ancora vive, vegete, soprattutto ancora squillanti. Senti caro Pippo, ma alla Rai torni o no? Ma adesso vediamo, io spero tanto, speriamo che si creino le condizioni favorevoli per un mio rientro, al quale io tengo molto. Ma come sei, pessimista o ottimista su questa cosa qua? Io sono molto ottimista. Qualcuno è andata bene questa, è molto più importante del paese. Poi pensiamo ai fatti propri. Era molto più importante. Ma tu lo vedi bene Renzi Premier? Cioè... No, non parlo di premierato, io parlo di segreteria. Di segreteria. Mi auguro adesso che tra Renzi e Letta si trovi d'accordo. Sì. Perché insieme, in maniera giovanile, sono due giovani nuovi. Sì. Rinnovino il partito. Sì. Pensi al progresso di questo paese, ai disoccupati, alla crescita, a quello che c'è bisogno perché le industrie riaprano. Ecco, ma tu come consiglio a Renzi gli dici dunque di non fare la guerra a Letta, di non spingere troppo, di fare... Ma non la farà mai. Non la farà mai. Ha detto che non la farà e non la farà. Non la fa, no, perché sai, il ragazzo è giovane e magari spinge per... No, il ragazzo è molto più intelligente della sua età. Tu dici che non la farà, però secondo me non può aspettare ancora un anno e mezzo. Ma che scherzi, ma cosa vuoi? È un ragazzo, c'è gente che ha aspettato anni ed anni. Io ne ho 77, aspetta ancora. Che c'entra? Uno può battagliare anche l'età, sai, il cervello quello che conta, l'età. No, tu dici la guerra non la farà, la guerra non avrà la serenità per pensare al bene di questo paese e non al proprio successo personale. Scusa, ma ti ha fatto impressione, tu che lo conosci bene, la decadenza di Berlusconi? Ti ha fatto un po' impressione o no? No, perché è chiaro che la botta è brutta, la batosta è forte, certo. L'idea di avviarsi con Grillo, questa non me l'aspettavo. L'idea. No, questa non me l'aspettavo, è stato un colpo di scena traumatizzante. Per te è stato un trauma questa cosa qua, perché dici? Ma perché sono due concetti che hanno idee completamente diverse, l'uno vuole la morte dell'altro e viceversa, è come sposare il diavolo con l'acqua santa, insomma. Ma sai, la causa comune è quella di far cadere il governo il più presto possibile. Guarda che quando due si alleano per la morte di un altro, poi c'è sempre uno dei due che alla fine soccombe. Ho la politica. Ma scusa. Dimmi Parenzo, dimmi, che devi chiedere? No, volevo chiedere a Pippo, non ti piace piace però di Berlusconi ancora questa idea di voler rimanere sempre giovane anche nell'aspetto io fisico? Mi piace l'idea giovanile perché anche io faccio altrettanto. Appunto. Facciamo l'impossibile per tenerci giovani. Ma una cosa è tenersi giovani, una cosa è guidare un movimento addirittura di massa nei confronti di un paese, è una cosa diversa, molto responsabile, insomma, ecco. Senti, ma secondo te Berlusconi come politico è finito oppure ancora qualcosa da dare? No, io penso che difficilmente, vedi, è un uomo nato per battagliare, nato per combattere, quindi difficilmente si arrenderà. A meno che non abbia un risultato talmente scoraggiante che lo porterà a desistere. Ecco, però, ma non è meglio che lasci perdere questo paese o no? Ma perché lasciare perdere questo? Questo è il suo paese e sino a quando questo paese gli consente di stare, è giusto che ci stia. Anzi, mi dispiacerebbe che fosse costretto a lasciare come un esiliato questo paese. No, il nostro paese democratico. Sì. È giusto che ospiti tutti. Ma secondo te Renzi ha qualcosa di Berlusconi? No, non vedo la somiglianza. Qualcuno dice che è un Berlusconi, no? Anche il carisma, la comunicazione. Ma questo... no, che il carisma ce l'hanno entrambi, insomma, parlano bene, sono sicuri, arringano bene le folle, però io questa parentela non la vedo. Senti, Parenzo, ti ricordi ultimamente... Dimmi. Renzi te lo chiedesse, no? Tu lo faresti, che so, il ministro della cultura, ad esempio. Ma manco per idea. Perché? Renzi è arrivato per ringiovanire tutta la classe dirigente politica, ci mette uno come me, si alza subito la media. No. Ma bellissimo, Pippo come testimone degli italiani nel mondo che viene ricevuto negli grandi contesti internazionali. No. Poi io devo continuare a fare il mio mestiere. Ma non ti sei... ognuno deve fare il proprio mestiere. Scusa Pippo, ma non ti sei un po' rotto le scatole a 77 anni ancora a cercare un contratto alla Rai che magari uno io non cerco i contratti, non dire in questo modo perché è offensivo. Ma no, in senso offensivo, non in senso materiale, a cercare, cioè dovrebbero essere loro a chiamare te, non tu che no. Ma loro mi chiameranno, non c'è bisogno di offrirsi pietosamente, per carità, non ci penso nemmeno. E cosa vorresti fare? Ma tante cose, ancora ho tante idee. Da questo punto di vista sono molto fresco. Daccene qualcuna, va, che pure noi siamo in deficit. Io so che voi avete bisogno tanto. Siamo in deficit totale. Siamo in mezzo alla strada, stiamo. Curatevi. Siamo in mezzo alla strada, guarda. Curatevi. Senti, curatevi. Ma adesso, ma ti pare possibile che Berlusconi si è fissato con sto Dudù? Ha fatto fare le indagini sugli italiani e i cani, sui rapporti tra gli italiani e i cani? Beh. È una specie di Gero Vital sto Dudù. Pure perché ci siete cascati, insomma, io... amo i cani, però insomma non mi sono mai accoppiato a un cane. Questo così. Vabbè, manco così. Berlusconi si è accoppiato a un cane, però. Senti, ma la Rai non andrebbe privatizzata? Io sono favorevole alla privatizzazione della Rai, almeno due reti. Le vogliamo privatizzare o no? Sì, dai, Pippo. Pure sarai d'accordo sulla privatizzazione di almeno due reti della Rai? Due reti vanno privatizzate. No, io penso che il servizio pubblico sia indispensabile. E vabbè, d'accordo, però una rete basta o no? No, una rete è troppo poco perché sarebbe monotematica e tutti i paesi che hanno usato questo sistema hanno avuto una rete noiosa non vista. Tu pensa che la rete, diciamo, national che provarono negli Stati Uniti aveva l'1% di ascolto. Vabbè. Non la seguiva e non la sentiva nessuno. L'alternanza è importante, quindi è giusto che le reti rimangano. Rimangano tre pubbliche? Sì, è giusto. È giusto. Bah, la gente sai che tre reti pubbliche non capisce perché ci devono essere tre reti pubbliche. Comunque... Ma no, ma adesso abbiamo tanti digitali, si possono fare tanti programmi diversi. Dai. Senti un attimo, ma avete fatto pace con Grillo oppure no? Per te è stata un'offesa troppo grande? Sì, ma poi anche lui l'ho letto da qualche parte. Beh, insomma, te l'ha detto di tutti i colori che slinguavi. Ma lui è eccitato la campagna elettorale. Ma qual è il suo limite? Che non riesce a vuole solo consenso intorno a sé. Ma no, è chiaro che lui cerca il consenso. Poi, essendo anche un artista, l'artista cerca il consenso, è normale, è naturale. Cioè, non sopporta i fischi. E se c'è qualcuno che obietta, si incavola, insomma, Però poi ci pensa, sa che io... Ma vi siete sentiti? Sono un suo amico, no, non ci siamo sentiti. Ma non c'è bisogno, quelle sono formalismi, formalità, insomma. Però tu avresti paura se un movimento come quello di Grillo prendesse il potere in Italia? Sì. Io, dal momento che non conosco qual è il progetto politico... Avrei paura perché non conosco il progetto, capisci? Cioè, dice, è talmente vago che c'è solo Grillo. Beh, perché è un movimento populista in cui chi sarebbe il punto di riferimento? Casaleggio, dici? Solo Beppe, no, non mi fido. Un attimo solo che abbiamo la pubblicità, poi torniamo con la conclusione con Pippo Baudo. Siamo qui alla Zanzara, 800 24 00 24, con David Parenzo in collegamento non so da dove, forse in treno, e con il mitologico Pippo Baudo. Voglio subito chiedere una cosa ancora su Grillo a Pippo. Dunque, la telefonata di riconciliazione mi sembra di capire che non c'è stata, no? No, ma come se ci fosse stata? E come se ci fosse stata? Beh, però lui ti ha dato del leccaculo dei socialisti addirittura. Beh, ma io gli ho dimostrato che sono stato io ad andare via dalla Rai, mentre lui poi... L'anno dopo era già a Sanremo per 2 anni consecutivi, quindi questo grande esilio non l'ha vissuto. Insomma. Non ha vissuto questo grande esilio alla fine. Ecco. Senti un attimo, ma che cos'è che ti inquieta? Casaleggio ti inquieta? No, non lo conosco, non ho mai parlato con lui. Io le persone le voglio conoscere, ci voglio parlare. Ma chi comanda lì? Non lo so, non lo voglio manco sapere, sono fatti intimi loro. No, ma come intimi? Sono cose, sono cose importanti per la politica. Che intendi come intimi, scusa? Ma nel senso che loro non esplicitano ufficialmente quali sono i loro progetti, allora è chiaro che rimane un discorso intimo. Ah, rimane un discorso, tu dici, privato? Ecco. Privato, intimo, ma privato. Queste liste di proscrizione, alcuni le chiamano così, che vengono fatte nei confronti dei giornalisti, hai letto questa cosa, no? Che cosa? Queste specie di liste di proscrizione che vengono fatte nei confronti dei giornalisti, in cui vengono... Speriamo di no. Così, hanno messo... Ma che arriva Massilla, tu sei troppo giovane, non so se hai studiato la storia romana. C'è pure Vito di Silla, come no, il quale certo. Appunto mi mise fuori il pensiero, sì. Allora, questo non è possibile mai farlo. No, ho capito, però lui ha messo in vita quelli che leggono il suo blog a segnalare i giornalisti che diffamano il Movimento 5 Stelle, e è stata segnalata una giornalista dell'Unità che si chiama Maria Novella Oppo. No, mi è dispiaciuto molto perché io conosco molto bene Maria Novella Oppo. Maria Novella Oppo, che peraltro è una signora in pensione, sì. Una signora che conosco da molti anni, sì. Ottima giornalista, una critica molto obiettiva, sì. Non è stata mai legata a cordate, a cosa, è stata offesa in maniera grave, e io, anche se non c'entro niente, io chiedo scusa a Maria Novella Oppo. Addirittura per conto di Grillo, quasi? No, per conto mio, per conto di, come italiano. Come italiano? Beh, però allora l'attacco di Grillo da questo punto di vista è stato pesante. Addirittura Grillo ha scritto sul suo blog che è stata pagata da tutti noi con i soldi dello Stato e dei contributi all'Unità. Non è vero. Maria Novella ha sempre lavorato onestamente e ha guadagnato i suoi contributi, sì. Per andare in pensione, quindi mettiamolo. Ecco, ma Grillo quando fa queste cose non si dimostra un po' fascistoide, secondo te? Purtroppo... Nasce un pensiero brutto, nasce. Cioè qual è il pensiero brutto? Scusami. È quello che hai detto tu. Cioè che un po' abbia qualche tendenza fascistoide. Penso, qualche venatura un po'. Un po'? Un po' fascistoide, dici tu. Insomma, un po' c'è. Speriamo che sia soltanto un'impressione. Speriamo che sia un'impressione. Ma i parlamentari grillini, quando li senti parlare, che impressione ti fanno? Ma sembrano bravi ragazzi, sprovveduti, vivono in un mondo... diverso da loro, sono stati catapultati, sì. In un ambiente che difficilmente comprendono, quindi capisco le loro difficoltà, sì. Le loro ingenuità e anche la paura che hanno, perché se sbagliano vengono subito puniti, sì. Da questi loro capi che li massacrano, sì. E quindi non deve essere un bel vivere. Parenzo, ma sei morto? Che fine hai fatto? Parenzo è morto. Sono morto sul treno. Che ne so, mai morto. Vuoi fare una domanda, no, al signor Baudo? Vabbè. No, volevo capire da lui, alla fine, lui ce lo potrà confermare, la fortuna di Grillo è stata quella di essere stato fuori dalla Rai e di fare per anni il cosiddetto reietto, il comico delle barricate. Questa è la sua fortuna poi oggi anche politica, su questo converrà. Cioè il vero escluso oggi è Pippo, non Grillo, che ha costruito su quello una carriera politica. Ma è escluso, non è che è escluso Pippo? No, ma io non sono né escluso né in carcere né in esilio, sto benissimo. Se uno è escluso dopo tutto quello che ha fatto, non è che è escluso. No, perché lui ha costruito su quello una carriera. Senti, ma come hai visto invece il ritorno di Marrazzo in televisione dopo quello che gli è successo, dopo la vicenda? Ma questa è una cosa, a mio avviso, normale, perché è stato assolto, ha partecipato a un processo come tutti i cittadini normali, sì. ha dimostrato la sua estraneità, si è fatto di essere vittima, sì, sì, di un'estorsione, e quindi come tale non andava punito ancora con l'estromissione dei programmi, sì, e dal suo mestiere. Mi sembra una cosa giusta. Caro Pippo, ti saluto. Saluto, vi auguro un buon anno. Ciao caro, ciao. Arrivederci. Ciao. Senti, scusa un attimo, Pippo, ci sei ancora? Ma tu non sei Berlusconi, che c'è una ragazza così giovane, che impressione ti fa questa cosa qua? Stia attento, perché certi colpi alle certe età possono far male. ciao, sei un po' invidioso, sei invidioso di per questa. No, per niente, perché questi rischi non li corro. ciao. Alessio da Roma, 800 24 00 24. Dimmi caro Alessio, dimmi. Sì, salve. No, io chiamavo semplicemente in merito, ho acceso la radio, la sento spesso, ma sono capitato proprio quando lei ha fatto questo appunto alla mamma disperata del 22enne che non lavora. Io ritengo che lei abbia avuto un'uscita veramente infelice. E quale sarebbe? Ma guardi che è una battuta quella sulle canne, ma è chiaro che è una battuta quella sulle canne. Ma ragazzi, ma no, come ve lo devo dire? Sulle canne? E quale? Canne, ma si tratta di, ma che me ne frega a me se tuo figlio non lavora? Se ma tuo certo che vai dormendo in piazza perché, scusami, che vai? Uno va in piazza perché il figlio non lavora. Ma scusi, ma ragioni un attimo. Uno ma va in piazza perché il figlio dorme e non lavora. In allora. Ma in mezzo a tutte quelle centinaia di migliaia di persone ci sono tante, sì, mamme, tanti genitori che hanno figli che stanno a casa, che non trovano un lavoro. Io sono alle parole pronunciate. Una signora viene in piazza e dice: io ho mio figlio di 22 anni, dico 22 anni, che sta a casa e dorme e non trova lavoro. Ora, a me che una persona vada in piazza e che dice: io ho il figlio a casa che dorme e a 22 anni non trova lavoro, sinceramente non me ne frega nulla. Cioè, ma non me ne frega nulla, perché è un problema. Ma non ne fregherebbe nulla probabilmente neanche del 35enne a questo punto. Ma no, ma è diverso se uno dice: sto in piazza perché c'è mio figlio che non riesce a trovare lavoro, perché ha fatto questo, ha fatto quest'altro, perché è così, perché c'ha 40 anni, cioè, è un altro discorso. Uno dice: ho un figlio di 22 anni che sta a casa, dorme, non trova lavoro, ma vattene a casa, aiuta tuo figlio a trovare lavoro, che cosa stai in piazza a manifestare? Beh, cioè, probabilmente questo chiarimento è stato opportuno, perché io credevo che lei, se ne uscisse, siccome la sento, dico, mi sembra strano che vada contro a famiglie che effettivamente hanno genitori che devono sostenere sti figli, pure Alessio, che già non ce la fanno. Alessio, scusami un attimo, non è che io vado contro, nessuno va contro, i travagli, le difficoltà delle persone ovviamente vanno rispettati tutti, però quando tu occupi una strada, fai qualcosa che non si deve fare perché ci sono cortei e cose non autorizzate, allora lì la questione è diversa. E poi me lo spieghi col fatto che tuo figlio di 22 anni sta a casa a dormire e non trova lavoro, ma io ti prendo a calci nel sedere e capisci cosa voglio dire o no? D'accordo. Ora credo di aver capito meglio. Io, siccome ho acceso in quel momento in cui lei ha praticamente deriso questa donna disperata, ma che no, deriso, ma io poi ho il mio modo di comunicare, che è di un certo tipo. Qui si fanno anche invettive radiofoniche, si utilizza un certo tipo di linguaggio, anche diretto, poco mediato. Poi se vuole uno approfondisce. Marco dalla provincia di Monza, proprio se è necessario. Marco, provincia di Monza. Buonasera. Dimmi caro. Guarda Cruciano, io ho chiamato perché ho sentito anch'io all'improvviso per radio sulla macchina che Ingroia era con la protesta di Forconi. In realtà su Twitter lui l'ha specificato, lui Sta con la protesta perché capisce le ragioni, però non è assolutamente solidale con i forconi, anche perché da quello che si capisce sembra una protesta nata anche da associazioni fasciste, e quindi Groia ha voluto comunque sottolineare Azione Civile. No, mi sembrava giusto dirlo, anche perché all'inizio sembrava si facesse anche una divisione, ma chi è in Groia? Ma quello della trattativa, così. È giusto per sottolineare il fatto che comunque Azione Civile è antifascista, non sta con i forconi, mi sembrava giusto dirlo. Ma non ho capito, scusi, lei ci chiama, Parenzo, rispondi tu per favore, rispondi tu. No, scusi professore, solo per dire questo, il signor Ingroia dopo la debacle delle scorse elezioni sarebbe dovuto rimanere in Val d'Aosta ad inseguire gli stambecchi che scappano dal freddo e cominciare ad arrestarli e fare delle retate di stambecchi, perché dopo una performance come quella già gli avevano dato l'opportunità di ritornare in magistratura, cosa anche questa assolutamente incredibile. Lui si è permesso di dire no, non è per niente incredibile, perché nel corso della lui storia si permette di dire anche no alla Val d'Aosta, perché in Val d'Aosta fa freddo rispetto alla Sicilia. E adesso ci pontifica sulla protesta dei signori forconi che occupano strade e bloccano treni. Vabbè, ognuno può dire quello che vuole, il punto non è quello che ha fatto Ingroia prima. No, ma per un magistrato che ha praticato la legalità, che ha chiesto la legalità, questo è vero, questo è vero. Non puoi appoggiare un movimento treni. Però c'è da dire che comunque la protesta è legittima, anche perché la situazione... Ma le proteste sono legittime, ma quando blocchi i binari dei treni, e tu hai fatto fino a poco fa il magistrato e della legalità ne facevi un baluardo, bloccare i treni non è nella legalità. Ma poi c'è una domanda che adesso giustamente io mi pongo. Comunque si è dissociato, ha detto solo che la protesta poteva essere condivisa su certi punti. Ma vabbè, guardi, non è un problema, è violenza, la posizione di Ingroia non è un problema. La ringrazio, Marco. Io mi domando una cosa, ma perché il figlio 22enne della signora di prima non è andato lui in piazza a protestare? Cioè, mi domando, forse stava a dormire ancora? Vabbè, però la disperazione della madre, questo si può un attimo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio. Davide, rispondi a Volpe. Pronto. Eccolo qua. Pronto. Eccolo, il breve Volpe Pasini, il breve cattore. Diego? Diego Montepasini. Sì, avete niente da fare, dovete perdere tempo, tutto il tempo. Non lavorate mai. Scusami, sono in questo momento sul treno Eurostar Frecciarossa. Hai brevettato anche il marchio Frecciarossa? Chi è? No, è Parenzo che come al solito non si sente una sega perché sta sul treno. Cioè, meglio, tutto tutto chiaro. Non perdo niente nessuno se non sentono Parenzo, sta tranquillo. Tutto chiaro, non si sente una sega perché ha deciso stasera di andare in treno. Vabbè, ma ognuno ha i suoi difetti nella vita. Se tu ci scegli un cretino come collaboratore è un problema tuo, sai. Lo so. Tuo, è colpa nostra, dobbiamo sentirlo. In parte ha anche ragione, ma non lo capiamo. Ma è vero che hai registrato forza22.it? Dai su Diego, pure forza22.it, ma sei uno specialista nel registrare le cose, ha ragione Parenzo allora? No, prima di tutto Parenzo non ha mai ragione, cioè Parenzo è un errore in quanto tale, sbaglia di default. Scusami, il genio della lampada? La cosa, sì, molto meglio. Il genio della lampada? Spegni il babbeo, dia all'Eurostar che tolgano il collegamento telefonico. Ieri durante la presentazione, puoi far star zitto quella gracchiante lì sotto? No, Parenzo, che cosa gli devi dire su Forza Dudu? Di no, qualcosa su Forza Dudu. Niente, perché siccome io sono sul Frecciarossa alta velocità, ha registrato anche già il marchio Frecciarossa, basta per caso? No, ho registrato babbeo.it e c'è il tuo primo piano. Lo tengo apposta per te. Ma come ti è venuto in mente? Va bene, babbeo.it con la faccia di Parenzo. Quando hai registrato Forza Dudu.it? Ieri, quando il presidente. Come ieri? Come hai fatto a registrare ieri? Andando su internet subito. Ieri, quando il presidente ha interrompendo Fiori ha fatto una battuta dicendo che si poteva andare sul web a vedere il sito di Forza Dudu, allora io immediatamente, come faccio sempre, hai registrato, ti sei messo lì, hai registrato Forza Dudu. Ed è a sua disposizione come sempre. Ma ho capito, ma ti pare normale? Tu hai sentito Berlusconi, capito Parenzo cosa è successo? Ha sentito Berlusconi che parlava, ha sentito Berlusconi e a un certo punto cosa ha fatto? È andato, lui evocava Forza Dudu, Quella sì. È andato subito su internet, tu hai registrato forzatutu.it. Parenzo, esatto. Di qualcosa. No, ho controllato se c'era. Vabbè, quello siccome sì. Non c'era, siccome non c'era, per evitare che lo registrasse qualcuno non amico del presidente, l'ho registrato subito ed è a sua disposizione. Parenzo? Parenzo? No, ma voglio dire, il personaggio con cui stiamo ancora una volta, aperta parentesi purtroppo, chiusa parentesi, dialogando, è un signore che si sa che è un esperto solo di questa roba qua. Per cui ad esempio adesso io sono davanti qui al parola sapone, lui ha registrato la parola. No, state zitti un attimo, non si capisce, dai, forza. L'unica cosa di utile che hai è la fidanzata a Roma. Parenzo, dimmi. Per fortuna ti mette riga. C'è la parola bagno, scarico del battere, già registrata. Tu vai lì e chi l'ha registrata? Dici, sono molto Basini. Oppure la parola lo registri tu perché l'ha dato a te e all'unico luogo dove vai bene, cioè al cesso. Io ho fatto una cosa che, come faccio sempre, quando ritengo che sia giusto per evitare che qualcuno registri. Ma tu quanti soldi ti fai dare a Berlusconi? Mai fatto dare neanche un euro nella mia vita da Berlusconi, nonostante me l'abbia anche chiesto con molta carineria e gentilezza. Mai, neanche. Ma ti sembra normale vivere di espedienti in questo modo? No, ma vedi, adesso ti querello perché di espedienti vivi tu e la tua faccia di merda. Tu che vai a vivere da nababbo a Roma con le tue fidanzatine e ti querello perché di espedienti vivi tu, testa di cazzo. Prima cosa. No, prima. Ho detto, e non ti permettere sciacquo di la bocca. Ma questi sono piccoli espedienti per registrare delle cose in marchi. Non sei altro. Per cui, caro mio, io non ho mai chiesto un euro al presidente Berlusconi, mai ma lo farò. Ma che c'entra questo? Ma se uno registra Forza Dudu, è chiaro che è un espediente, no? No, tu sei un espediente della natura. Tu sei un errore della natura. Tuo papà doveva andare al cinema. Lo tardi che è lui. Così evitavamo di perdere tempo. Mi meraviglio di Giuseppe Cruciani, che è una persona per vabbè, adesso però è un po' esagerato questa cosa. Ma scusami, hai anche registrato, ad esempio, la parola attenzione uscita, no? Ausgang. Cretino, tu non sai neanche cosa vuol dire. Registrato? Sei un povero ignorante. Vai a lavorare un giorno. Vai a lavorare un giorno nella tua vita, idiota. Però è anche vero, Davide, che hai utilizzato la parola vivi di espedienti. Questo l'hai detto, vivi di espedienti. Ovviamente. Altre volte gliel'ho perdonato perché è un povero cretino, questa volta gliel'ho querelato. Parenzo querelato perché ha detto vive Diego Volpe, sì. Basini vive di espedienti. No, lui è un espediente di natura proprio. Cretino, David, come ti permette? Sai cosa c'ha il babbeo? Che quando qualcuno lo insulta, poi si minaccia querela a destra e manca, no? Dappertutto, perché quando qualcuno insulta con le facce di merda dei compagni, si innervosiscono. No, io non ho mai correlato nessuno se non quando mi hanno detto che sono stato comprato per essere candidato con la Lega. Solo quella volta ho querelato. Ho detto che il tuo è un espediente. Quello di registrare i marchi dei partiti. No, non è niente, è una tutela, vedi, tu sei un poveraccio, perché è una tutela, perché qualcuno possa, perché per evitare che qualcuno possa fare. Ma che tutela è? Poi glielo devi vendere, no? Poi se mai glielo devi dare è una Perché vendere? Cosa costa 19 euro? Io registrare un dominio costa 19 euro più IVA. Secondo te non è un espediente quello di registrare i nomi dei marchi tu hai detto che vive di espediente, vedo Volpe Basini. Ho detto che è un espediente, ma se mi volete far guardare, puoi farlo pure, ma chi se ne frega. Ho detto che è un espediente, ho usato il termine espediente per dire che è un espediente quello di registrare i marchi. Ma che marchi? Vivi d'esperienza e tu li registri per venderli a qualcuno che ne ha diritto. Io non lo farei mai nella mia vita. Ma non è un espediente politico quello di prendere un nome e metterlo e registrarlo senza poi farci quale un nome? Partito, un movimento? Vabbè, comunque ragazzi, la verità è quale questa, nome? Che il sito, allora, il sito Forza non Dudu... Non aveva registrato anche il partito di Haider, come si chiamava lì in Veneto? No, ha registrato il simbolo della Lega, la cosa della Lega. No. Ha depositato il simbolo della Lega prima al nord. Ho depositato dopo la Lega, dopo aver visto che la Lega non lo usava, un marchio che mi piaceva, punto. Dopo che la Lega aveva depositato i suoi simboli. Ma è un espediente, non è mica una stupidaggine. Perché deposi una cosa di un movimento che esiste, di una associazione che è stata fatta. Ma come, hai fatto anche una trattativa? Hai fatto una trattativa per candidare tua moglie? Dai, perché, su. Sì, no, loro me l'hanno offerta. Vabbè, ho capito, perché c'era questa roba qua in ballo. Perché c'erano due gruppi in Veneto e in Lombardia che volevano presentarsi alle elezioni e è stato detto di no, punto. Vabbè, comunque. Tu mi vuoi spiegare? Berlusconi parla dei cani, parla di Dudu. Come lo chiami tu, uno che non è Volpe Basini, che va a registrare il marchio Dudu? allora, espediente intelligente, se vuoi, chiamalo come ti pare. Se tu smetti di gracchiare, allora se lo fa uno come me e lo fa a tutela e mette a disposizione immediatamente. Beh, questo lo dici tu, però. Certo, dico io, vuol dire chiunque, lo posso dire io. Comunque la realtà è questa, che tu alle 17.47 di ieri, sì, alle 17.47, come sì, ci segnalano, correct, da Twitter, tu hai registrato, correct, il marchio forzadudu.it. Punto it, esatto. Forza di Parenzo! Ho controllato, visto che ne ha parlato il Presidente, siccome parla senza registrare i domini. Cioè tu l'hai fatto a tutela di Berlusconi, questo hai detto. Esattamente. A tutela di Berlusconi. Vabbè, grazie, ciao. Ciao Diego, ciao, ciao. Sì, comunque la zanzara stronza. Roberto da Roma, buonasera. Luciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Senti, io faccio il tassista a Roma e ti posso dire una cosa, sì, che a me mi stanno sulle palle quelli che bloccano le strade. Meno male. Ma se uno non blocca le strade, ma mi dici come deve fare? Ma che vuol dire se uno non blocca le strade? Ma per fare cosa? Che risolvi bloccando le strade? Spiegami, che risolvi? Per manifestare. Manifestare per ottenere cosa? Per ottenere cosa? Il diritto. Quattro buffoni. Ma la gente la mandi a casa solo con le elezioni, non la mandi a casa in un altro modo, hai capito? Non è l'unico metodo democratico che c'è. Non esiste un altro. Forse perché tu guadagni bene. Ma che c'entra questo? Voglio, un argomento... voglio vedere se te c'hai i figli a casa e c'hai i soldi per farli mangiare. Voglio vedere che facevi. Ma tu vuoi eliminare la povertà? Vuoi eliminare la povertà? Certo. Vuoi eliminare la povertà? Beh, figlio mio, ci hanno provato in tanti a eliminare la povertà con i metodi più impensabili e soprattutto con i metodi più, e anche con i metodi più assurdi e, se vogliamo, più dittatoriali. Non si può eliminare la povertà. Chiaro? Non si può eliminare, ma no, questi qua che si piano 20.000 euro al mese senza fa niente. Ma che c'entra quello? Dipende, ma chi? Ma ho capito, ma dipende chi gli dà 20.000 euro al mese senza fare niente. Se li pigliano i grandi burocrati di Stato, hai ragione tu. I grandi burocrati di Stato. Ma se un'azienda dà 20.000 euro a qualcuno, sono fatti di quell'azienda o no? No, no, io sto parlando di politici che si piano 20.000. Ma i politici, lascia perdere, dovrebbero essere dimezzati. Non abbiamo gli attori, abbiamo l'attori che vanno a fare i set cinematografici e poi timbrano al Parlamento e non ce vanno. Quello è Barbareschi, quello è il signor Barbareschi. Sappiamo bene di chi stiamo capito, parlando. Quello è uno però, è uno. Non so uno, perché qui sono 900, ce ne andranno 10 e poi dicono che i tassinati sono tutti ladri. Ma chi lo dice? Ma chi lo dice? Io lo dico che qui se stiamo a fare la fame tutti quanti. Io sto al centro di Roma, stiamo al 10 dicembre, al 9 sì, dicembre. Sì. Sto al centro, sono tutti i negozi vuoti. Qui Marino ha fatto un casino, ha fatto tutti quanti i cambiamenti al Colosseo. Vabbè, adesso però, Roberto, stai mettendo insieme delle cose che non c'entrano niente, i cambiamenti che ha fatto Marino nella viabilità della città, i negozi vuoti. E fate capire che questi politici non ci capiscono niente, qui chi va su. Ho capito, ma non è che voi cercate ogni tanto la soluzione di tutti i vostri problemi in quelli che ci governano. Non è così, cioè non funziona così. Cioè, non... E chi è la colpa? Fino a mo' adesso la colpa l'hanno accollata solo a Berlusconi. È colpa di Berlusconi. Ho 40 anni e va male l'Italia, ma è colpa di Berlusconi. Vabbè, ti abbraccio Roberto, poi... resisti. Ci proviamo. Andrea D'Alecco, Andrea. Pronto? Dimmi. Eccomi qua, signor Cruciani. Dimmi caro. Ma mi sembra che lei gli stanno arrivando un po' di me in faccia. Mi stanno sempre più nei, sembra più Vespa, sempre più Vespa assomiglia. Guardi, per carità, io lo conosco, lo rispetto, lo stimo, però mi sembra perché, di essere un po' diverso, francamente. No, ma guardi che sta andando verso quella, probabilmente sarà il futuro Vespa. Non mi pare proprio, perché quando sento parlare lei con il suo politico, col suo politico di turno, lo sento tutto sdolcinato. Non mi pare proprio. Si parla del Dudù, del cagnolino. Ma quello non era un politico fenomeno. Se va a trombare . E poi quando ci sono questi signori che vanno in piazza perché non ce la fanno più, sì, perché la gente non ce la fa più. Sì. Invece di dire cazzo, qui c'è gente, e quindi io in Cruciani vedevo una persona che forse mi faceva sentire un po' la mia voce, faceva sentire la voce di queste persone. Invece adesso non lo vedo come Vespa. Sì, come vedo Vespa. Che fa la leccatina al politico di turno. Ai piedi, ai piedi però. Ai piedi. No? Ai piedi come Dudu. Ai piedi come Dudu. Invece lo tratta così. Ma che cazzo siete a bloccare le strade? Io lavoro tutti i giorni e se domani me lo trovo una persona che blocca la strada, lo capisco, ma se vedo un politico che mi blocca la strada, lo investo. Ma veramente il politico che blocca la strada mi sembra un po' difficile, francamente. Ma se me lo trovo anche su marciapiede, gli vado addosso. E poi va in galera, però. Vai in galera. Ma non me ne frega un cazzo. Sono vai in galera. Vai in galera. Vai in galera. Non me ne frega un cazzo. In galera. E sono contento se investi qualcuno se vai in galera. Sono contento se vai in galera. Quella gente lì che su a governarci. E aspetta un attimo. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. Non mi moleste moschito. Let me eat my burrito. Non mi moleste moschito. Why don't you go? Guardate che vengo lì di pigliarti in culo. Ma no, non c'è bisogno, questo lo fanno i forconi. Questo lo fanno i forconi, caro Corona. Oh, vogliamo... Che sentiamo? Sentiamo Salvini che se la piglia con Maria Teresa Meli del Corriere della Sera. Dai, Matteo Salvini, nuovo segretario della Lega, subito in litigio con una giornalista del Corriere. Via. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Why don't you go? Il ministro cancellieri è andato a seguirla prima della scala da San Vittore. Sì. Napolitano ha chiamato i carcerati. Perché doveva andare a San Vittore a sparare carcerati, sembra... Scusi? Dunque, la Maria Teresa Meli del Corriere della Sera dice che doveva fare il ministro della giustizia, cioè, se non andare a San Vittore. Ma che cosa vuol dire? Mi scusi. No, ma che cosa sta dicendo lei? Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Lei sa dove vivono i carcerati a San Vittore? Grazie alla sua maleducazione. Ma visto che lei sta a Milano, vada lei a fare un giro a San Vittore. Allora, va avanti. Salvini finisce, forza. La mia mamma mi ha insegnato il rispetto per chi parla, non si interrompe, ok? Adesso, la sua mamma non è vero che le ha insegnato brutte cose. Su, allora, Salvini finisce, nessuno lo interrompe, poi io voglio vedere invece il Corriere della Sera, pensa a questo. Sua madre le ha insegnato brutte cose, dice la signora Meli a Salvini. In realtà Salvini cosa criticava? Criticava la posizione sull'amnistia, con parole sue ovviamente, di alcuni esponenti politici, cosa assolutamente legittima. Non è che uno per forza deve essere dalla parte dell'amnistia e dell'indulto, cioè del perdono, non deve essere per forza. Non è necessario. Un po' a corrente alternata. Cioè ma lascia perdere, ma non è necessario. Ma non è necessario, capito? Dipende da chi è il condannato. Se il condannato è un rom, un negro, come diresti tu, oppure un albanese, e andiamo su tutte le etnie presenti nel mondo, allora quelli devono stare in galera e buttare via la chiave. Se invece magari è qualcun altro, vabbè, lì no, complotto, politica, magistrati politicizzati. Andrea D'Alecco, eravamo sempre con lui. Vai Andrea, lecco anche i piedi. Lecco anche i piedi dei politici. Lecco anche i piedi. Ma allora, torno al discorso di prima. Io vorrei vedere, cioè sentire un Cruciani che dà più risalto a quello che la gente in questo periodo che stiamo passando soffre, insomma dà più risalto a quello della gente e meno risalto ai politico di turno, alle cazzate. Poi la trasmissione lei la fa come vuole. Vabbè Andrea, grazie. Però... grazie, arrivederci. Ernesto da Roma. Pronto Cruciani, buonasera. Dimmi caro. Niente, io non sono preoccupato per i forconi, tanto questi domani e dopodomani finiscono. Bravo. Speriamo che non ci scappi il morto, soprattutto. Ma no. Oddio, una cosa la possiamo dire. Che possiamo dire? L'andamento lento del governo nell'affrontare i problemi fa girare le scatole a tutti. Sì, però d'accordo, non è il modo, questo non è il modo, questo, ha ragione lei. Non mi preoccupa neanche Dudu, Cruciani. Ma veramente no, Dudu non mi preoccupo nemmeno. È una cosa, ridiamo con Dudu, dai, ridiamo con Dudu. quello che mi preoccupa è Matteo Renzi, poverino. Addirittura. Ma sì, adesso lo metteranno nel tritacarne, la vecchia oligarchia che lui crede di aver messo da parte. Col cacchio, i D'Alema, i Bersani, i Rosi Bindi, la Finocchiara. Adesso gli vanno a contare i peli nel naso e vedrà che tireranno fuori con i loro PM, i magistrati, gli fanno fare la trafila di Berlusconi. Questa è una reincarnazione, Renzi, è la reincarnazione di Berlusconi, perché ha il carisma, ha la dialettica, e questi sono contro a questo genere di personaggi che potrebbero veramente fare qualcosa per l'Italia. Non scordiamoci, caro Ernesto, lei ha così ragione, che non scordiamoci che altri segretari del PD erano stati osannati come il nuovo e poi sono stati triturati dagli altri, dai capi Pataz, no? Speriamo che stavolta facciano passo, perché questo ragazzo veramente può fare qualcosa. Insomma, che vuoi dire a Parenzo? A Parenzo voglio dire che lui, che è stato schiavo di questi capataz, che si deve vergognare per tutta la vita. Addirittura. In quanto campa. È stato uno schiavo dei D'Alema, dei Bersani, dei Bindi, cosa sono stato io, scusi? Uno schiavo di tutta l'oligarchia del vecchio PD. Lei è un vetero comunista perché non è così grave quel che lei ha detto, ma grazie, lei è troppo buono, mi commuove, grazie, come siete buono. Ma si deve vergognare, perché della mia storia lei non sa niente. Lei è stato un leccapiede di questi vetero comunisti, lo confermo. Questa volta la devo correlare. Davanti a tutta l'Italia, lo confermo. In onda, può parlare. Sono costretto a querelarla, purtroppo. Mi dispiace, guardi, io tengo famiglia, non lo faccio, guardi, sia buono. Lei che è un leccapiede, mi confermo. Non lo faccio, io è vero che sono stato iscritto al PDS. E poi ai lo vedi. È vero che io sono stato un dirigente di quel partito, quando ero un ragazzo, perché ho fatto militanza politica, siccome non era la camorra nell'Andrangheta, ma era militanza politica in un partito, ho dichiarato di farlo. Da quando poi ho cominciato a fare il giornalista non sono stato più iscritto a nulla, e qualche anno non ho neppure votato. Nel salutarlo le dico una cosa, i coglioni. Capito? No, lei può fare una cosa, un buon gesto. Qual è? Può chiamare qualcuno della vecchia oligarchia e dire di non rompere i cocomeri a Renzi, di non triturarlo, non metterlo nella fogna mediatica dei giornali, dei PM d'assalto, delle toghe rosse, di lasciarlo in pace. Ecco, questo lei lo può fare, così riscatta tutti le capietismi che ha fatto nella sua vita. Tommaso da Cosenza, ciao Ernesto. Tommaso da Cosenza, mo sta in treno e te becchi questo, se stavi qua rispondevi bene. Tommaso da Cosenza. Tommaso da Cosenza. Buonasera, mi sente? Sì, vai. Dottor Cruciani, buonasera. Guarda, io volevo rispondere solo alla signora che c'aveva il figlio che è a letto, sì. 22 anni. Io volevo dire che praticamente da me c'è il lavoro, raccogliere le arance, i mandarini. Bravo, bravo, andate a raccogliere le arance e i mandarini, servono tanto. Il problema è che si eliminerebbe anche il problema degli extracomunitari che vanno a raccogliere le arance. Il problema vero è che alcuni lavori, quel signorino là che sta a dormire, figurati, non li vogliono fare questi lavori. Sì, no, ma lei ha ragione, Tommaso. A 22 anni dorme e non trova lavoro, ma vai a casa. Maria Paola. No, non trova il lavoro che vuole lui, non è che non trova lavoro. Cioè, se si alza alle 3 d'estate a raccogliere le pesche. Sì. Già si è fatto il periodo estivo, poi il periodo autunnale se le fa con i mandarini, il periodo invernale con le arance, già si è fatto 9 mesi di lavoro. Maria, ognuno però, magari quello là ha studiato, vuole fare un altro tipo di lavoro, è legittimo, eh? Maria Paola da Milano. Sì, ho capito, mi avete tenuta per ultima perché non sopportate le donne, ho capito. Non sopportiamo chi, scusi? Le donne. Noi le amiamo, le adoriamo le donne. Ma mi viene il dubbio. Lei dice? Sì. Sa perché? Perché? Ne parlate talmente tanto che a un certo punto mi viene il dubbio che non amate le donne. Ma noi non dobbiamo parlare delle donne in generale. Cioè, non ne parlate mai. Ma non esiste l'argomento donne, ha capito? Non mi faccia debordare, perché poi ecco appunto mi manda l'avviso di garanzia. Senta, voi siete sempre vestiti da pinguini e potevate benissimo andare a cantare alla Scala. Noi siamo vestiti come da pinguini, noi sempre chi? Abito scuro con la camicia bianca alla Modugno. No, io sono vestito ogni tanto, anzi spesso, con l'abito scuro e la camicia bianca. Ecco, c'è qualcosa che non va? Lei. C'è qualcosa che non va? Rassicuro loro da lì perché può tenersi le tre narici, io glielo garantisco, così non deve fare l'intervento. Può tenersi le? Le tre narici. Le tre narici. Le può tenere da lì perché intanto sì. Povero Renzi fra un po' è già dall'altra parte. Ma la mia telefonata è questa. Qual è? Ho saputo sì. che hanno dato l'ambrogino d'oro a sì. due cani. Voi sapete come si chiamano? Cruciani e Parenzo. Ah, ecco, allora non hanno sbagliato. Complimenti. No, e ogni tanto danno l'ambrogino d'oro anche agli animali. Ah, ecco. Capito? Mi hanno detto due cani. Ho due detto, cani, visto che sì. stasera continuate a parlare di cani. Assolutamente, guardi. Si ma sono... sapete sbagliare? Va molto bene, molto sì. bene, ma sono due signori che si chiamano Cruciani e Parenzo, sì. I quali hanno sì, provocato sì. un moto di invidia talmente forte per questa cosa qui, talmente forte, che persone come lei si scatenano a dire telefonano. Queste minchiate e telefonano per dire queste minchiate, ha capito? Sentite, io vi dico solo una cosa, e io godo delle telefonate un po' più ironiche, dai. E io godo. Gode, ma godo, lo so. Comunque godo. Mi spiace perché a voi non piacciono le donne, non ne parlate mai. No, a noi non piacciono le donne. Ho cominciato a parlare un po' di donne, non a staccarle sempre. Bisogna vedere che cosa si intende per donna. Ma lei ha capito? No, ma io ho capito benissimo, guardi, so benissimo. Il David non so, però il David non deve fare l'intervento, si tenga le tre narici che va di lusso. Enrico da Pavia, buonasera. Non ho capito il nome delle tre narici. Ma che ne so, Enrico da Pavia. Buonasera. Dica. Cruciani, io ho ascoltato stasera la trasmissione e sinceramente questa gente che può fare protesta così, per carità, non devono fare la protesta, devono votare, ma votare chi? Cioè ce lo dica lei, votare chi? Ma che glielo devo dire io chi deve votare, scusi? No, glielo devo dire io votare? Per chi? Ma lei come pensa che venga gestito un paese? Attraverso le rivolte di piazza, attraverso i forconi, attraverso le proteste o attraverso... La disperazione della gente. La disperazione della gente. La disperazione della gente. E che cosa bisogna fare con la disperazione della gente? Ma è l'unico modo che hanno per avere un minimo di voti. Ma la gente è disperata per tanti motivi più disparati. C'è gente che è disperata perché c'ha il figlio. Ho capito. Cioè, ci sono mille motivi diversi. Okay, ci sono molti che soffrono perché questo Stato è uno Stato tassatore, uno Stato che ti spilla qualsiasi cosa. Cosa molto importante. Ci sono quelli disperati perché perché l'azienda ha chiuso e perdono il lavoro, cosa che succede in tutto il mondo occidentale. Ci sono tantissimi motivi, più disparati, più diversi, non esiste qualcosa che li metta insieme, ha capito? Ho capito, però quanta gente si è ammazzata, quanta gente non arriva a fine mese, comunque vediamo tutti, noi, cioè io ho 32 anni, sì. cioè, mi chiedo, ma per mia figlia, io non riesco più a mettere via, io faccio camionista, non è che prendo 800 euro al mese, comunque cioè, prendo già uno stipendio più alto di un operaio, non riusciamo ad arrivare a fine mese, lavoriamo in due. Cioè vediamo che continuiamo a pagare tasse su tasse, cose che non si sa che cosa stai pagando a un certo punto. Sì, ma su questo lei ha ragione, ma non è che serve andare in piazza con i forconi. Sì, ho capito, non si sa niente, tanto come Stefano ha detto da Torino, prima. Stefano da Torino, buonasera. Buonasera. Quando arrivo al casello di Grugliasco voglio ridere. Vabbè, benissimo, casello di Grugliasco, voglio ridere, non la metteremo come sigla, poi? No, volevo intervenire sui frosconi, forconi, i froci forconi, perché questi si svegliano oggi, 9 dicembre, sì. dopo esserselo fatto buttare nel culo per anni, sì. e poi per un giorno, due, tre, il tempo in cui la cronaca li ricorderà, che sarà pochissimo, sì. si svegliano e io mi chiedo, ma dove erano quando si andava a votare, quando potevano scegliere il loro leader? Adesso che si ritrovano il retto dilatato come Vabbè, l'oceano, abbiamo capito, sì. si svegliano e non sono più d'accordo. Ma prima dove eravate? Dove erano? Chi hanno votato? Ma me lo chiedo. E che ne so, avranno votato chi 5 Stelle, chi Berlusconi, addirittura chi la Lega, chi magari anche il Partito Democratico. Certo. E adesso si svegliano e si ritrovano indignati. Ma sa perché si ritrovano indignati? Perché prima un pochino avevano la loro piccola cuccia calda in cui ritrovarsi, sentirsi al sicuro. E poi svanito lo Stato sociale, dissolto il welfare, hanno scoperto che anche loro potevano diventare poveri e si sono svegliati solo adesso. Ma che se ne vadano a fanculo, ma che se ne vadano a fanculo. Nicola da Firenze. Nicola da Firenze. Nicola? Buonasera, buonasera. Mi dimmi, dimmi. Sì, ma io sono rimasto un po' basito, se si può dire in questo modo, quando voi avete detto che a proposito della telefonata, della intervista a quella signora che è ragazza a 22 anni e dorme a casa, e voi avete detto che a 22 anni eravate all'università facendo finta di studiare. Purtroppo non è che tutti a 22 anni possono fare finta di studiare o comunque si sentono il diritto di fare finta di studiare. C'è anche gente, ragazzi giovani come me, che hanno voglia di fare, hanno voglia di mettersi sì, certo, alla prova e vorrebbero semplicemente lavorare. Il problema è che, vede, se uno studia e prende un titolo come una laurea, quando entra nel mondo del lavoro gli chiedono l'esperienza. Io sì, vabbè, ma adesso non facciamo, non facciamo adesso tutta una prosopopea su. Io ho preso in giro quella signora perché ha detto: io sono venuta qua in piazza, non si capisce perché non sia andato lui. Sì. Perché mio figlio ha 22 anni e sta a casa a dormire perché non trova lavoro. Dai, ma di che parliamo? No, dai. Certo. Pietro, provincia di Caserta, dai, Pietro, provincia di Caserta. Volevo intervenire sempre sullo stesso argomento, perché sulla questione del ragazzo che rimaneva a casa e non andava a lavorare, perché in effetti il lavoro non c'è. Non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che diceva che invece il lavoro c'è nei campi, che dove è questo lavoro nei campi? Non lo so. E poi come vieni remunerato, se c'è la concorrenza dell'operaio indiano a nero a 2 euro all'ora. Vabbè, Sergio da Vicenza, adesso non me ne frega niente di entrare in questi dettagli, il mondo del lavoro, come funziona, come non pronti funziona qua. Sergio, Cruciani? Dimmi, vai, sì, dimmi. Cazzo, ma Cruciani, porca troia, ma come si fa ad accettare quel deficiente lì che ha registrato il sito di Dudu? Ma dai, ma cazzo, ma è una, ma mi meraviglio anche di Parenzo, che lo lasciate parlare, un cretino del genere. Ma vabbè, ma adesso un cretino che vuol dire? Ha registrato il sito forzadudu.it. Ma dai, ma come si fa a dare il voto a sto coglione di Berlusconi? Cazzo, sabato sono stato a Roma e sono andato dietro e davanti a Palazzo Grazioli, ci sono ancora quattro camionette, sì, con i carabinieri. E vabbè, ho capito, che vuol dire questo? Ma dai, è condannato, dobbiamo metterlo in galera questo qua. Sì, ma magari con la ghigliottina pure, condannarlo a morte. Ma sì, ma guarda danni che ha fatto all'Italia, 20 anni che ci ha preso per il culo, ma robe da matti, 20 anni che ci prende per i fondelli questo qua. A domani ragazzi, 18:30, ciao.